versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, alle 16.30, 6 primi 26 secondi qui in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per continuare ad ascoltarci e a scaricarci, ovviamente se non potete in diretta. Vado subito all'argomento del giorno perché, come promesso ieri, anche oggi diamo a voi la possibilità di chiamarci all'800240024 oppure di mandarci gli sms al 349-238-6666 per dirci, siate elettori del PD o dei 5 Stelle, innanzitutto voi, se avete votato questi due partiti, poi in generale tutti gli altri, cosa ne pensate dell'apertura di Grillo e Casaleggio per l'incontro con il PD per la riforma elettorale. Sì, io continuo a rimanere su questo punto perché mi sembra la più significativa novità di questi ultimi giorni. Del resto ho pieno rispetto per i colleghi giornalisti che devono inseguire casi di cronaca come quelli naturalmente dell'arresto, dell'assassinio presunto di Yara, tradito dal DNA, e del caso della famiglia sterminata da Carlo Lissi, che poi è andato a guardarsi la partita. Però a dire la verità io non ho mai avuto un'inclinazione particolare per la cronaca nera, i drammi della famiglia eccetera eccetera, e quindi rispetto per i colleghi, ma io rimango su questo argomento, anche perché ieri abbiamo avuto un mucchio di telefonate e sono convinto che molti di voi tra 5 Stelle e PD ancora abbiano molta voglia di dire la loro su questo argomento. Oggi abbiamo chiamato un ospite. Tra tutti i commenti, prima di presentarvelo e di fargli alcune domande, prendo uno dei commenti che ancora oggi stamane sui giornali erano copiosi e numerosi su questo argomento: prendere sul serio o meno questa richiesta di incontro, chi è più in difficoltà, Grillo 5 Stelle dalla una parte o Renzi dall'altra. Scelgo con pochi passaggi in sintesi il commento che ha firmato sulla stampa di Torino stamattina Elisabetta Gualmini. Elisabetta Gualmini dice che in buona sostanza Grillo ha preso questa iniziativa per due ragioni. Primo, scrive, stamane mette in imbarazzo il Premier costringendo Renzi a scegliere tra lui e Berlusconi, cioè tra il nuovo e il vecchio, tra i puri e gli impuri. Sinora, prosegue Elisabetta Gualmini, Renzi aveva potuto spiegare che l'accordo con Berlusconi era dovuto anche all'impossibilità di dialogare con i grillini integralisti e solitari per scelta. Mentre ora, dopo l'iniziativa assunta da Grillo e Casaleggio, ecco che Renzi dovrà spiegare che al posto di Grillo, se gli dice no, sceglie l'inciuccio con Berlusconi. E d'altro canto, proporre una legge elettorale proporzionale senza premio di maggioranza e con la sola correzione dei collegi di media grandezza significa presentare a Renzi, da parte del Movimento 5 Stelle, il contrario di quello che vuole. E questo è il primo punto. Poi Elisabetta Gualmini ne aggiunge un secondo, dice: secondo obiettivo di Grillo, la versione morbida del grillismo potrà anche far dimenticare in fretta la surreale alleanza con la destra radicale di Farage dell'UKIP. Nonostante l'approvazione della rete, infatti, il cartello in Europa con il partito della destra estrema e xenofoba inglese ha sollevato oggettivamente moltissime critiche, soprattutto tra i parlamentari del 5 Stelle, ma anche tra molti dei suoi militanti in rete. E quindi, tendendo la mano al PD, Grillo distrae il suo elettorato dalle faccende europee. E dopo essersi avvicinato a un partito di destra, ecco che mostra a tutti l'occasione di mostrarsi altrettanto, se non più disponibile, qui a casa propria con uno di sinistra. Come a dire, discutiamo con tutti, siamo coerenti alla nostra natura, siamo sempre oltre rispetto a tutti gli altri. E così si invertono le parti, conclude Elisabetta Gualmini rispetto allo streaming del febbraio scorso, perché lì era Grillo che non faceva parlare Renzi, uomo delle banche, giovane vecchio della politica italiana, a cui rimproverare di essere poco credibile. Ora lo vedremo forse ostentare una predisposizione all'ascolto. Ecco, io su questo non lo so, non ci scommetterei troppo. Sapete che Renzi a quanto pare si sottrae direttamente all'incontro, quindi saranno i capigruppo, ma comunque questa, tra tutti i commenti, è quello che mi è sembrato più azzeccato stamattina sui giornali. Ma andiamo al punto della faccenda. Ieri vi ho sintetizzato le caratteristiche tecniche della proposta di riforma elettorale elaborata dai 5 Stelle: un proporzionale corretto con l'effetto di correzione del proporzionale puro rappresentato dalla diversa ampiezza dei collegi, il voto in panachage, in buona sostanza un proporzionale corretto, ma corretto molto poco, insomma, che dal punto di vista dei 5 Stelle è una proposta di legge elettorale non come l'Italicum, fatta apposta con l'idea di garantire per forza i seggi a qualcuno che crede di avere già vinto. Ed è qui, torna con noi, uno degli ispiratori fondamentali, sia pur avendo detto a questi microfoni anche molte volte che lui l'avrebbe corretta, quindi non è che ne sposa la versione definitiva dell'Italicum, cioè il professor Roberto Dalimonte, che insegna sistema politico italiano alla LUISS di Roma ed è anche editorialista del Sole 24 Ore ed è direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, professor Dalimonte. Grazie a voi per l'invito. Allora, ci si risintetizza una sua analisi, un giudizio sulla proposta dei 5 Stelle? Che cos'ha, secondo lei, di buono e di cattivo? In realtà, Giannino, lei l'ha spiegata molto bene, sia ieri che nella sintesi che ha fatto poco fa. È un sistema proporzionale corretto, per cui ci sono così elementi maggioritari, cioè io preferisco chiamarli disproporzionali, sì. Che sono legati alla dimensione delle circoscrizioni, però come ha già detto lei, queste circoscrizioni sono mediamente grandi e quindi gli effetti maggioritari o disproporzionali sono relativamente modesti. Tra l'altro aggiungo una cosa, che nella prima versione di questa proposta, che circola ancora, le dimensioni corrispondevano alle province, quindi erano 110 le circoscrizioni in cui venivano assegnati i seggi. Nelle 110 circoscrizioni originali, quindi nelle province, ce n'erano molte di piccole dimensioni, quindi applicando la formula elettorale proporzionale alle 110, non alle 42 dell'attuale proposta, gli effetti disproporzionali, quindi maggioritari, erano più accentuati. Invece adesso sono effetti, come dicevo, modesti. Poi l'altra... Questo spieghiamolo in aggiunta per chi ci ascolta, perché naturalmente con il proporzionale più sono piccoli collegi, cioè con un minor numero quindi di seggi assegnati per eleggerli in quella circoscrizione, più è piccola la circoscrizione, più c'è una soglia implicita che si alza, no? Esattamente, cioè diventa più piccola la circoscrizione e più avvantaggiati sono i grandi partiti che hanno più voti rispetto ai piccoli partiti. E hanno fatto bene a chiarire che per dimensione della circoscrizione non parliamo di dimensione geografica o demografica, ma numero di seggi assegnati a quella circoscrizione. Quindi in Spagna il numero medio sono circa 5-6, invece nel caso del quello che io chiamo il grillinum, non il democratellum, nel grillinum invece la dimensione è più alta e gli effetti quindi disproporzionali sono minori. Perché noi abbiamo, nel caso dell'ultima versione della proposta di riforma elettorale dei 5 Stelle, tre grandi circoscrizioni metropolitane, Milano, Roma e Napoli, che hanno addirittura da 32 a 42 seggi l'uno, poi 19 circoscrizioni comunque da 11 a 19 seggi e 6 poi da 21 a 24 seggi, quindi come vedete i seggi sono tanti, quindi io non so se sia corretto, ci corregge lei, i giornalisti che scrivono c'è una media del 5% su più di metà dei seggi assegnato, si può fare davvero questo conto, un tetto d'ingresso del 5% minimo? A me sembra un po' troppo elevato. Ecco, esatto. No, non si può fare, non si può fare così in soldoni. Io però ho fatto una simulazione usando i dati delle europee, che uscirà domani sul Sole 24 Ore, il mio giornale, per cui con questo sistema al PD verrebbero assegnati 307 seggi, ed è una simulazione attendibile, naturalmente fatta con i dati degli europei, quindi il PD col 41% dei voti, con il grillinum avrebbe 307 seggi, ricordo che la maggioranza è 316. Alla Camera, certo. Se invece si utilizzasse la versione originale del grillinum, quella con le 110 circoscrizioni corrispondenti alle province, il PD avrebbe 336. seggi. Ah, quindi con la versione originale, significa collegi più piccoli e quindi sì, premio implicito più elevato, avrebbe la maggioranza il PD. Sì. Qui ci fermiamo per i 60 secondi di informazione stradale, perché questo punto può essere importante per capire se si può aprire una trattativa comunque interessante per il PD oppure no. Aggiungo che stamane la Lega ha dato l'ok all'impostazione di fondo della proposta dei 5 Stelle, poi Calderoli ha detto ci sono alcune fesserie tipo il voto in panachage e così via, però come è noto alla Lega l'impostazione neoproporzionale piace e come, e non solo a lei ho l'impressione, perché se guardo ad Alfano e agli altri non so quanti anche non siano di questa impostazione. Adesso strada e torniamo poi col professor Dalimonte. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16:47-46 secondi a interrogarci sulle possibilità che tra l'Italicum, la proposta di riforma elettorale, sapete, con il premio di maggioranza che scatta al 37%, è stato abbassato rispetto alzato rispetto alla versione iniziale, e abbiamo tentato di riepilogare invece la riforma dei 5 Stelle, prima versione con 5 collegi a base provinciale, seconda versione con collegi che diventano più ampi, quindi un implicito tetto più basso per entrare, di correzione proporzionale. Il professor Roberto Dalimonte, che è con noi, domani ci ha annunciato esce una simulazione, cioè l'applicazione a questo criterio elettorale della riforma 5 Stelle dei voti espressi alle ultime politiche. È questo il criterio che avete usato, dei voti alle politiche o delle correzioni con i voti europei? Europei, per miei perdoni, giusto, giusto. Ecco, i voti europei avete sentito nell'ultima versione, quella con i collegi più ampi della proposta dei 5 Stelle, 307 deputati al PD, quindi non ha la maggioranza alla Camera, ma con la versione iniziale, cioè con i collegi provinciali, avrebbe la maggioranza, perché andremo a 330. Non è quindi domanda al professor Dalimonte che su questa base Renzi è una parte del PD, quella che poi storceva sempre il muso per l'accordo con Berlusconi, potrebbe dire ma se noi ci sediamo a 5 Stelle e gli chiediamo la loro versione iniziale, poi alla fine a noi va bene comunque? Lei che pensa? Innanzitutto ci sono tanti problemi legati alla proposta del Movimento 5 Stelle e il fatto che il Movimento 5 Stelle vuole un sistema elettorale che vada bene sia per la Camera che per il Senato, perché a loro va bene il bicameralismo paritario. Quindi qui c'è una cosa che non è stata sottolineata abbastanza: la riforma del Senato, la riforma elettorale devono andare di pari passo. Nella proposta del Movimento 5 Stelle non si parla di superamento del bicameralismo paritario, quindi questo, anzi, loro hanno più volte detto esplicitamente che vogliono mantenerlo. Esattamente, quindi piano non si va da nessuna parte, quindi però ha ragione lei, Giannino, quando dice che effettivamente questo sistema elettorale di tipo proporzionale può tentare molti in Parlamento. Aggiungo però io che tutto dipenderà, o molto dipenderà, dalla risposta di Berlusconi. Berlusconi è silenzioso, non ha parlato, quindi non sappiamo ancora se manterrà fede al patto del Nazareno oppure no. Se manterrà fede al patto del Nazareno, quindi continuerà a sostenere sia l'Italicum, che ricordiamo è già stato approvato alla Camera, sì, e sia la riforma del Senato, pur con le correzioni che ha già richiesto, quindi Berlusconi continuerà ad appoggiare Renzi, io credo che se andrà avanti su questa strada, la strada dell'Italicum e del superamento del bicameralismo paritario, altrimenti si apre uno scenario completamente diverso. Perché poi il tutto dipende, tradotto, dal fatto se Berlusconi stimi tra sé e sé, fatto una ricognizione della sua potere di coalizione sul campo ancora con chi gli era uscito dal partito, se davvero ha la possibilità nella sua stima di tornare il deuteragonista, cioè quello che fa il numero due nel conto dei voti e che può poi battersi con Renzi per il premio di maggioranza oppure no, perché se la risposta fosse no, io credo che cambieremmo, entreremmo in una roba per cui non si regge più il patto, perché a quel punto non sarebbe più interessato a una cosa in cui le forze che si affrontassero per premio di maggioranza fossero PD da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra. Posso sbagliare, ma io la penso così. Non so, è chiaro che qui siamo di fronte a predizioni, però la logica politica porta a pensare questo. Lei che dice, professore? Ma tenga conto che termino che se non ci saranno elezioni anticipate, io in questo momento non le vedo, visto anche che il sistema elettorale attuale riprodurrebbe una situazione molto simile a quella di oggi. Senza elezioni anticipate, noi parliamo di elezioni nel 2018, da qui al 2018. Difficilissimo a dire, certo. Può succedere di tutto, una situazione di instabilità, di volatilità, di incertezza. Ricordiamo tra l'altro che il Capo dello Stato fa ogni tanto cortesemente ma formalmente presente che lui oltre un certo limite non va, quindi insomma c'è anche questo passaggio che istituzionalmente e politicamente avrebbe la sua importanza. Sentiamo alcuni ascoltatori che ci riportino la loro opinione. Roberto da Parma, prego Roberto. Io ringrazio tanto perché non pensavo neanche mi lasciaste dire una cosa a cui tenevo, ma io trovo questa trovata però di Beppe Grillo una trovata simile a quella a cui ci aveva abitato Berlusconi, cioè probabilmente il colpo di caldo della scorsa settimana ha influito, perché io da cittadino ho votato un referendum come cittadino che diceva no al proporzionale, e che Beppe Grillo vada a presentare una legge elettorale votata da 27.000 persone dicendo che sono i cittadini e che è una nazione, lo trovo a questo punto ridicolo. Io ringrazio perché so che il mio approccio è stato molto critico, ma ci mancherebbe. Quello che credo sia un reale nuovo problema per l'Italia. Ho considerato Berlusconi per 20 anni un grave problema per l'economia, per tutta una serie infinita di ragioni su tutti i sistemi etici, economici, e ho intravisto una piccola luce di uscita con una soluzione che è quella con Renzi nei limiti della situazione. Adesso una figura politica come quella di Grillo che si sveglia e cambia come faceva Berlusconi le carte in tavola, solo con un grande tatticismo, tralasciando tutto quello che è stato detto, il rapporto con i cittadini che hanno dichiarato che volevano il maggioritario e tutto il resto, la consultazione in rete così. Va bene, allora Roberto, suo punto di vista è molto netto e chiaro. Sentiamo Plinio da Arezzo, prego Plinio. Sì, buonasera a tutti. Io la penso più o meno esattamente come il collega che mi ha preceduto, anche se con motivazione diversa. Per meglio dire, devo dire che io sono stato da sempre un elettore di centrodestra. Sì. Questo non sto votando per Grillo, perché mi sono veramente schifato della politica, dei politicanti e dei soggetti che fanno politica. E quindi però dovrebbe essere contento o no? O non lo è di questa... Ho votato per Grillo perché speravo che Grillo buttasse fuori tutti una volta che fosse riuscita a vincere e introducesse un sistema nuovo che non veda assolutamente nell'epoca Renzi e di Renzi o di altri. Ma nella quale epoca intravedo soltanto i vizi e i difetti dell'antica politica. Qui occorre, a mio modesto parere, una soluzione drastica, una asfaltata, come dice l'amico Renzo, di tutto il vecchio, e mettiamo il nuovo, vediamo. Quindi diciamo dal centrodestra ha votato Grillo, ma mi pare di capire che lei stia evolvendo verso una simpatia, un sostegno insomma nei confronti di Renzi. Ho sbagliato, Plinio? No, io non sono affatto. No, ecco, ho capito. Va bene, il tempo è finito. Io ringrazio il professor Dalimonte. Continuate su Radio 24. Appuntamento come a domani.